quando senti l'orchestrina tra una danza americana che strimpella una mazurka dall'aria paesana. Pensi allora alla quadriglia d'un bel tempo che passò, quando usava la pariglia attaccata all'andò, quando non c'era penzoloni con i mutandoni sotto la sua gonna. Quando mio nonno per baciare la sua mano non usava la scaletta ma la bicicletta fino al primo piano. I giovincelli di vent'anni o poco più, come eran belli coi baffoni per l'insù. Alla mazurka tempo assai lontano, quando prima di sposarsi stavano a guardarsi con le mani in mano. Forse balla la carioca, il sassofono rimbomba, ma mio nonno suona ancora il grammofono a tromba. Pensa in me con nostalgia all'antica gioventù, quando allora ogni Maria non era Mario. Com'era bello quel tempo che fu, alla mazurka che ballava la mia nonna, quando al Valle dal Manzoni c'era già Falcone e Galli prima donna. Quando mio nonno caporal di fanteria stava 4 giorni in posa per mandare a Rosa la fotografia. Finché il progresso l'automobile inventò, oh che successo la vertigine e lo sport. Allor mio nonno divorava monti e valli, 3 chilometri in un'ora con le 2 cilindri a 5 o 6 cavalli. Ora con la 2 cilindri a 5 o 6 cavalli.